Amici e amiche, sono le 7:01. Primo, vi parla Rariele dalla stazione radiofonica denominata Rock FM, via Locatelli 1, 20124 Milano. Andiamo a cominciare questa nuova giornata, un nuovo giovedì 20 di settembre, come leggo dalla scaletta. Andremo a cominciare insieme la 14ª puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. Buona giornata a voi già svegli, e buona giornata anche a voi che riascoltate la trasmissione nel corso del pomeriggio e della sera. Fortunelli, maledetti Fortunelli. Pane, burro e rock and roll. Ma noi vogliamo più bene a te, caro. A tua colazione, roll. A te, cara, in diretta, ciao. Pane, burro e rock and roll. Tragu, tragu, tragu, tragu. Oh, che si fa oggi? Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Pane, burro, rock and roll, la colazione che dà assuefazione. Lasciatevi infettare, capito? Potrebbero essere i nuovi motti. Allora, Larie vi ha già salutato, ringrazio, saluto Spadino, il nostro regista, la squadra di Pane, Burro e Rock and Roll. Vede tra le sue fila anche Roberto Fricantoni, uno scrittore, un poeta, un saggista, un letterato, una testa calda del rock italiano. Che presentazione oggi. Roberto, aperte le virgolette, Freak, chiuse le virgolette, Antoni, a Bologna. Chiudiamo il cerchio con il nostro stegista impagato e impagabile che veglierà su di noi anche quest'oggi. Ma in realtà, per dirla tutta, ci siete voi, cuore pulsante della nostra trasmissione radiofonica, e lui, il lampione crepuscolare, ancora acceso a quest'ora, benché la luce inizi a salire. Com'è questa storia, ragazzi? Voi che tanto vantavate di sapere, di conoscere il funzionamento del lampione crepuscolare, perché è ancora acceso? Allora? Non è che va a orologio, come dicevo io? Eravate proprio sicuri? No. Ci tuffiamo al volo in una bella foresta, tanto per cominciare allegri la giornata. Rullo che arriva col... Buona giornata, amici. Saremo duro fino alle 9. Se lo vorrete, qui su Rock FM. Iniziamo con i Cure. A Forest. Ta, ta, ta, cu, ta, tra, cu, ta, cu, tra, ta, cu. E beh, certo, c'è anche Mr. Trombetta. Ciao, caro. La mucca Camilla dove la mettiamo? Che è la figlia della serva? Follow your eyes. È bastato interpellare i Cure, le forze dell'oscurità si sono impossessate del lampione, si è spento, vedi, non è crepuscolare, va a Cure, che secondo me un po' li sente, perché è vicino alla finestra di Rock FM il lampione qua davanti, sente un po' il mood che passa dalla finestra e decide di spegnersi, va bene, è Forest, i Cure. Questo spadino lo sai che è un tormentone che capiscono solo quelli che stanno ascoltando nella diretta. Quelli del pomeriggio, secondo me, sono lì che si chiedono, e quelli che ci riascoltano in internet. Cazzo sta dicendo del lampione questo qui? E voi non avete mai assistito a uno spegnimento in diretta di un lampione crepuscolare. Sfortunati voi. Do il benvenuto a tutti i nostri amici che vorranno vivere, costruire insieme questa puntata, la 14ª di Pane, Burro e Rock and Roll. Vi vedo già belli attivi al nostro numero di SMS ed è giusto che sia così, che noi siamo in squadra con te, ma anche tu allora devi entrare in squadra con noi. Fa molto appartenenza questo tormentone. Vi ricordo il numero 335 100 77 77. Ricordo anche giustamente la casella di posta elettronica ariel@radiorockfm.com, dove già ho il messaggio di Carlo, il nostro tabaccaio di fiducia, colui che ci ha aiutato e ci aiuterà nelle prossime puntate a sdoganare il lotto. Non il cilotto, ci tengo a precisarlo tutte le volte, il lotto, il gioco del lotto, che martedì abbiamo decretato essere un gioco rock, soprattutto perché i numeri che diamo noi sono sbagliati. Carlo però tranquillo, cioè Carlo ha già pronto la terzina di oggi, aspetta, viviamo la puntata, vediamo cosa succede e verso 8:30, 9 diamo i numeri per quest'oggi, perché giovedì credo sia il giorno giusto. Gli SMS, i primi commenti, non sai quanti salti in discoteca con le mie scarpe a punta e il mantello nero negli anni 80, grazie per Forest. Ariele, ti adoro, ma facci sentire tutto. Era tutta la canzone, eh? Sfumava così. Non so come farei senza il vostro buongiorno. Ciao Eli. Dai, ci siamo. Come fate a essere così attivi alle 7? Bravi, complimenti. Frick Antonio a quest'ora dovreste vederlo. Ce lo facciamo un almanacco, dai. Diamo un senso a questo 20 di settembre. Voi intanto pensate anche voi dei numeri, eh? Poi li si dà. Ah, sarà una giornata straordinaria se la passerete insieme a noi. Garantito. Upon a sea where the Speranza che questo giovedì mattina lo spirito di Mike Buongiorno non prenda il sopravvento sul nostro rocker di riferimento, è un piacere augurare un buon giovedì mattina anche a Roberto Fricantoni. Allegria! Eccolo che già arriva. Un inizio alla grande! Alla grande, sì sì sì. Per un vero inizio alla grande, sa cosa le consiglierei, caro Frick? Ho una mezza idea, forse l'almanacco. L'almanacco, esattamente. Mi chieda se mi va di farlo. DJ Ariel, sì. Le andrebbe di fare l'almanacco quest'oggi? Assolutamente no! Ah, benissimo, no. E allora comincio io. Era il 1793. Quanto, il 20 di settembre. Quanto lontano andiamo? In Francia! In Francia, partiamo da così lontano per dirvi che siamo alle porte della rivoluzione. E venne proposta e approvata appunto nella Francia pre-rivoluzionaria l'adozione del calendario rivoluzionario francese. Ah, che momenti! Infatti, nella sua ansia di innovazioni radicali in tutti i campi, la rivoluzione francese, dopo aver creato il sistema metrico decimale, sì. E non poteva assolutamente astenersi, non poteva non intervenire sul calendario. Così si progettò il calendario rivoluzionario francese. A quando un calendario rivoluzionario di pane, burro e rock and roll? Prossimamente, lasciateci pensare. Prima facciamo la patente da vero rocker. Esatto. E poi vediamo. Esatto, mi ha colto di sorpresa, mi ha spiazzato, ma sa che è una buona idea? Sa che le propongo un balzo di un centinaio d'anni per arrivare al 20 settembre del 1870. Le truppe del Regno d'Italia, nello specifico i bersaglieri, entrano in Roma attraverso la breccia di Porta Pia, ponendo così fine allo stato della Chiesa. La capitale d'Italia passa da Firenze a Roma. Mi piace il momento trombetta, sai? Molto molto carino, molto carino. Andiamo avanti, le va? Sì. Era il 1918, era un 20 di settembre. E abbiamo da registrare la prima presunta comparsa delle stigmate sulle mani, penso. Sì, direi di sì. Direi di anche sì. Anche sui piedi. E forse sui piedi di Padre Pio di Pietralcina. Ricordiamo che le stimmate sono decisamente rock. Anche a noi piacerebbe avere un qualche tipo di stimmata. Lei ha una stimmata? Io non ho per ora stigmate e passerei, come si suol dire in termine tecnico, dal sacro al profano, ricordando che il 20 settembre del 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, obiettivo ben poco raggiunto. Sappiamo infatti successivamente la storia ci ha insegnato che il problema non si è risolto, perché poi la prostituzione si esercita sui viali e nelle strade. Lei è del 54, quindi aveva 4 anni, ha fatto in tempo ad andare in un bordello o è andato direttamente sulla strada? Io sono andato direttamente a Catafascio. Andiamo con l'ultima domanda di questo. Catafascio è un bordello bolognese. Sì, sì, è un modo di dire per bordello bolognese sulla strada. Chiudiamo, ma in basso fondo. Chiudiamo con una notizia punk. Era il 20 settembre del 1976, Londra. Nel yeah. Club 100 si tiene il primo festival punk britannico. Sa chi suonò? Glielo dico subito, nelle due serate suonarono Sex Pistols, yeah. The Clash, yeah. Subway Sex, i Damned, i Vibrators, yeah. i Buzzcocks e gli Stinky Toys. Che invidia, avrei voluto esserci, ma forse c'ero, non me lo ricordo più, forse ci sono stato, ma chissà, la memoria a volte mi gioca dei brutti scherzi. Venga qua sul cerchietto, Ariel, e dia il prossimo almanacco. È finito, Freak. Come è finito? Adesso che ci avevo preso gusto. Andiamo avanti con la musica. No, no, Spadino, vai. before love came to town. Ran into a children when I heard a kid scream. The notes were turning blue. I was dazing in a dream. As the music played, I saw my lantern around. That was the day before love came to town. When love comes to town, I'm gonna jump that train. When love comes to town, I'm gonna catch that plane. Maybe I was wrong to ever let you down, but I did what I did before love came to town. Ciccione di B.B. King con quel tappetto di Bono degli U2. Sdrammatizziamole un po' queste rockstar, no? B.B. King è un super ciccione e Bono è un tappo. Come Freak Antonio, è un tappo. Sei basso, Freak. Come si dice, nella botte piccola ci sta il buon vino. When love came to town. E siamo noi a portare l'amore alla città, dalla Milano dalla quale vi stiamo parlando. Stavo morendo. Augurio di una splendida giornata a tutte le città sintonizzate. Vi ho ricordato poc'anzi un numero di SMS. Vado a salutare al volo subito i primi gruppi d'ascolto che ci contattano. Il gruppo d'ascolto dei reperibili, chiamati alle 5, che rientrano al domicilio per dormire accompagnati da Rock FM, rappresentato da Gibson 69, che ci saluta. Ciao caro, buona nottata. Un saluto ad Andre, e commenta una cosa accaduta nell'ultima mezz'ora di ieri. Non so se tutti voi che siete all'ascolto adesso siete riusciti poi ieri a sentire fino alla fine. Lui si riferisce a questa versione di Hey Giuditta, ovvero Hey Jude, interpretata filologicamente parlando dal maestro Freccantoni ieri e trasformata in Hey Giuditta. Commenta: ho ancora la pelle d'oca, direi quindi oggi vi dovete superare. Ave maestro Freak. Caro Andre, ci penseremo, insomma. Non vorremmo esagerare con le versioni in italiano, ma prossimamente ne stiamo già lavorando un'altra, posso dirti solo questo. Attenzione, perché abbiamo anche radioascoltatori che a quest'ora hanno già una mente lucida, preparata, pronta a idee geniali, ed è così che vi vogliamo. Geniali come sempre, si firma Metal Chef da Prato.